Era una serata triste, ero solo a casa mia. Mi sentivo molto meste, senza un filo d'allegria. Niente donna da abbracciare, niente amici da incontrare. L'una puff era sparita, gli altri tutti alla partita. Ma di stare in casa no, proprio non ne potevo pensare. In casa non è aria, una birra è necessaria. Sguardo in un secondo fu tutto brillato. Dissi bello, facciamo due passi. Mi preparo, ti prendo il guinzaglio. Il guinzaglio era impietoso, tutto il punto a fronte rimase. Poi gli corsero giù sulla porta di casa. In un attimo eravamo giù. Ho portato il cane a prendere una birra. Sembra strano, mai così. Il corale non era per terra, la distesa di colpo. Ho portato il cane a prendere una birra. Sembra strano, mai così. Il corale non era per terra, la distesa di colpo. Nonostante le incertezze del barista e dei clienti, ordina un paio di birre belle fredde, spacca denti. Certo la conversazione non sarà stata granché, come vero banca bestia ben in linea col cliché. Ho portato il cane a prendere una birra, sembra strano mai così, il corale non era per terra, la tristezza di colpo svanì. Ho portato il cane a prendere una birra, sembra strano mai così, il corale non era per terra, la tristezza di colpo svanì. Questi casi di questa vita che ti stressa più che mai, una birra col tuo cane fa passare tutti i guai. Sembra strano mai così, il morale non era per terra, la tristezza di colpo svanì. Ho portato il cane a prendere una birra.